Hola. Gianni, ci sei? Avanti. Chi è, Franco? K, chi sei? Avanti, io non ti sento bene. Sto guardando l'antenna, c'è la stazione. Ciao, Fra. K, va, vattene, sì. Sì. Ascolta, guarda, provo un amplificatore, mi dici se sto uscendo saturo quando aumento. Vai. Così è saturo, così sono una manetta. No, no, assolutamente. Posso provare a aumentare un po' i watt dell'apparato, perché erano troppo alti, li ho abbassati perché mi hanno dato dei controlli di saturazione. Provo a aumentare un po'. Vai. Così gliene sto dando 10 in ingresso. Sta saturando? No. Che strano, come mi davano dei controlli saturi prima? Dipende dal ricevitore, fra io sto usando un HF 7007 con i filtri LAT. Ho capito. E come segnale quanto guadagno? Da così? Da così, eh? Ah, così, così sono liscio. Da 9,5 a 9,16, già guadagno abbastanza. Quanti saranno? Un centinaio, non lo so. Guadagno abbastanza. Io come sto arrivando? La radio lo sento un pochettino occupa, però conta che ce l'ho smontato, l'apparato un po'. Il coperchio è smontato. Prova un po'. 1, 2, 3, 4, 8. Il segnale sei al più del 30. E così cambia qualcosa, sì. Così scompare del tutto. No, scompagliano, vabbè, lo smetto che non è funzionale allora. No, ma anche la radio, e basta, tu conta che io c'ho un'antenna che è attaccata alla facciata, non so se ti ricordi. Quindi alla parte tua sono proprio tappato, è di brutto. Vabbè, però da 9.30 a scomparire il segnale c'è qualcosa che non va. A voglia! Da calibrare anche lo strumento. Sì. Prova. Ciao anche all'altro amico che ha salutato. Dovrebbe essere almeno 8-9. No, ma anche la radio non è, cioè, è proprio tipica di un segnale basso, quindi non penso che sia problema di strumento. Problema o di antenna, di posizione di antenna magari. E vabbè, ma aumentando così il watt non è che parlo da 1 a 9.30, cos'è? 9.30 adesso, sì. No, al più, no, non a 9.30, al più, prima delle 30. Così. Ciao Alessi. Ciao. Alessio, da te sono saturo? No, grazie a Dio no, ma lui è tranquillo comunque sia. Passa da un segnale all'altro. Quindi. No, io dicevo, cioè sono saturo io, Ale. No, tu no, e grazie a Dio no. Oh, no, vabbè, adesso sono liscio, mi dai il controllo dopo, se. Vedi un po' adesso se sono saturo. 9,10, radio 5 chiara, amplificata a posto. Allora lascio così, dai, grazie per adesso che chiudo tutto. Gli alimentatori, ciao Tino. Ciao qua. Per niente baracchini, dai, se sto facendo male. Ma io devo chiudere, ti. Meno male, chiudo? Bene, bene. Kappa, grazie. Se prendete voi, grazie. Chiudete, se no vi mette la portante. Ciao, invece bene allora. Vabbè, allora chiudo. Andavè. Oh, yeah. Mi sono andato a ritirare quella roba, va. Adesso procuro i pomellini. Però devo fare connessione al microfono, ma posso... non lo posso operare adesso. Il baobab. Me l'ha detto Fabrizio. Era impegnato una volta, Lui ha. Devo mandare a Fabrizio domani se ci va Arbus. È casino, più lontano di caldo. E vabbè, allora ne approfitto a scendere al ghiero che è un incontro, credo. Vabbè. Un attimo, Tino. Mara. Ero in prima potenza, guarda adesso che sono in sesta potenza. Ho sbagliato io poco fa. Va meglio? O è saturo? Aspetta che come tu hai tolto con l'altra. Non saturi qui. Stavo provando in prima poco fa con Tino. L'ho visto. Lui è stanco, vabbè. Stanco sì, si sente. comunque, vediamo un po'. Vedi un po', 1, 2, 3, prova. Eh sì, in quinta potenza, sta arrivando Santiago. No, è in sesta, Cambia marcia allora, perché sei basso da parte mia. Poi non lo so, metti in prima. Così in prima? 5, 6, vai a 5, poi vai a 9. E come mai tu mi arrivi bene qua? Ho questi fregi. E il tuo smitter funziona bene? Aspetta, guarda che l'ha attenuato. Cavolo. Sì, quasi 9.20, dai, quasi. No, la radio mi interessa, se la radio è chiara o se devo abbassare la potenza di ingresso dell'apparecchio. Chiara, va bene, non stai saturando. Ok, lascia così, grazie ancora. Va bene, signori, vi saluto che devo scendere la portatura adesso a far giocare a Donnarumma. Va bene, ciao a tutti, fallo giocare forte. Ciao. Ciao a tutti, dai, io chiudo che metto le viti. Ciao. Ci sentiamo domani a casa, va, quando rientro, vediamo un pochino, va, facciamo la passa. Ciao. Già va bene. Come? Già vai bene. Lo smitter però ha ragione Walter, non è fluido nei movimenti, sembra che si punti da qualche parte, non scorre bene la lancetta. Vedi, adesso un pochino con questa roba sento un pochino saturo. Adesso mi ho chiuso. Molte volte la carcassa cambia, qualche percussione di massa magari, che ne so. Adesso non c'ho tempo, allora, che devo uscire. Prova a passare un po', adesso lo sto pilotando con 10 watt, io l'avevo portato a 7 prima. Prova a passare un pochino. Anch'io sto uscendo, sto aspettando che si prepari questo qua e alle 5 e mezza può essere portato a ma. No, anch'io adesso le 5 passano a prendermi, anche noi abbiamo un appuntamento e quindi lo farò un altro giorno, lo abbasso di qualche parte e lo chiudo direttamente, tanto da 7 a 10 vedo cosa cambia, non cambia nulla, no? Ma allora io l'avrei messo anche a 7, va bene. Sì, allora, stavo uscendo un lineare in SSB, è uguale, è sempre saturo? Leggermente sì, si sente che si è agganciato. Ok, proviamo in quinta. Così in quinta, sempre saturo? Un po' di meno, lo sai. Però manco, metti a 4. Così a 4? Fa della metà dei vatti, però sto installando la scarpa. Vabbè, però così non distorce niente. La radio è molto più amplificata, più bella. Proverò, se riusciamo a tenere il massimo magari con qualche watt in più, senza a discapito della modulazione, dai. Ma con calma proviamo un altro momento. Grazie per adesso, dai, buona serata anche a te. Ciao anche io, non posso scendere. Ciao, magari a stasera se coincide. Grazie, ciao. Ciao. Tutti muti? C'è qualcuno? Gioventù, ci siete? Gioventù, c'è qualcuno qui in ascolto? Tutti a passeggio? Ecco, ce ne vede uno, chi è questo? Avanti, avanti, i belli ragnoni a tutti quanti, avanti, balla Arecci. Cosa mi ha voluto far vedere? Che c'eri in ascolto? Ma che se ne ha fuggato in affutti? Te lo dico in sassarese, grazie in affutti ci sia in ascolto, ci dà buono i prezzi. Giulio, attenzione Giulio, canale 10. A Bisese? Oh, good domine, a Bisese. Non ti sento, troppo basso, sì, non ti sento. Mettiti sulla sedia, così almeno ti sei più alto e ti sento. Avanti il bip, chi è col bip? Attenzione canale 10. Attenzione canale 10. Ora. 10. Ora canale 10, prego. Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione canale 10, prego. Hola. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Ciao Gianni. Ciao carissimo. Ti ho sentito poco fa ma non potevo rispondere perché stavo facendo lavoro ed ero lontano. Ce l'avevo attaccato però non ce l'ho fatta rispondere. No problem, tranquillo. E oggi come è questo silenzio? Ah boh, ho acceso poco fa, mi è sembrato di sentire Giulio chiamando, poi mi sono avvicinato io e ho provato a chiamare, ma magari sto facendo roba. Mi sono spostato sul 9 e ho beccato due camionisti di Cagliari, cazzo, era uno spettacolo sentirli. Ci sarebbe da entrare e dirgli che sul 9 non si può modulare, il 9 è il canale di emergenza, capito? No, noi lo utilizziamo come canale di emergenza. Già lo so, no, mi sono fermato perché li ho sentiti. Qui piano piano sicuramente erano in movimento e sono spariti. Li ho sentiti anche io. Stavano sognando di andare in pensione, di prendersi la villa con la piscina e via dicendo. Camper, Viagra, minca qui, minca là. E poi si svegliarono tutti sudati. Era solo un sogno. Via. Va bene, dai. Olbia, Olbia. Io che ho terminato adesso di mettere a posto tutto, ho ritirato la roba, me la sono piegata, me la sono messa la tomata e via. Così almeno sono a posto. Se piove, non pioverà, ma se piove, almeno tutto. Anzi, veramente l'ho ritirata ieri la roba, l'ho messa in una bacinella, quando c'è Giulio l'ha messa a posto. Così almeno l'ha fatto. Infatti ha fatto che diceva quell'acqua sporca, meno male che l'ho ritirata. Sì, è imbruttato tutti i bacconi, no? roba sabbia, roba del genere. Sì, la macchina se mi ricorda l'ha fatta a me, la mia macchina è nera, sta più come potrebbe essere. Purtroppo, quando fa parlare più giallismo, poi penetra da tutte le parti, a volte la porta alla faccia a lavare, rimangono dei rimasti di sé. Sì, sì, sì, si infiltra dappertutto, certo, certo. Il nero è molto difficile da tenere pulito. Ma quando è pulito c'ha il suo fascino. Che sei? A parte sì. Gappa, buonasera, ciao Gianni e ciao Gianni. Ciao, mi hai sentito buono, anche a te. Avanti Gianni, l'Uprofetta. Ciao Massimiliano, là, ben entrato là. Totueni? Ci che messo uno, là, che me la paga. Tutto bene, tutto bene. Bene meda, bene meda. Ho visto che non sei entrato in questi giorni, sicuramente avrei avuto il tuo bel da fare. Ero un po' impegnato, là. Ero un po' impegnato. No, stavo frugando veramente adesso fuori nel terrazzo. E c'ho un altro armadio lì, stavo frugando e mi sono usciti altri due baracchini a pizzo. Insomma, Dugnaro con i furrugeggi ci ha preso sempre cosa, così è? No, già un militare non ne hanno preso perché ho chiuso in busta. Ah, e allora non lo prendo. Dopo te le dimentichi anche, no? Le cose quando le metti, te le dimentichi pure la cartellata. Allora, lo sai che cos'è questo qui? Questo è un Bowman CB765. 765, sì, 40 canali. No, non lo conosco, non ce l'ho presente. Ma è mezza cagliata, vero? Vabbè, quindi la battaglia. Eia, e poi un 48 Excel. Ah, quindi che erano da già la fabbrica, come si dice, che erano già con la camera eccetera, già dalla fabbrica. stavo già o quarto o classico normale, era espanso di canali e boh. Col 1969 di finale. Va bene, già possono servire, solo che quando la truppa è dopo a lui, anche io ne ho tanta. Vabbè, fuori, anche fuori di qua c'ho due portatili, uno di cui è quello per l'emergenza radio che c'ha la antenna con la calamita, quello della Intec, insomma, per il tempo, c'è anche un bel porto, un bel bel. E poi c'è un altro della Intec sempre, e quello appunto portatile lo devo portare appresso. E poi c'ho sempre un monogatto, il Midland Rana Cruz, il 48 Cruz della Midland, che è tutto quanto digitale. Anche questo è questo Midland 48 XL, questo è digitale lo stesso, capito? C'ha frequenzimetro, ha tutto. Sì, io c'ho il Cruz, infatti ce l'ho, quello lì ce l'ho proprio in concessione. Aspetta, guarda, ti mando una foto perché è spento, è nuovo nuovo. Sì, ma meno male lo conosco, è simile al mio. Guarda, ti ho mandato la foto. Gappa gappa, sì, ho già, dove frughi frughi, boh, ne esce di radio a pizzi, no. Già l'hai visto dentro lo scatolo, ho già due. E ne ho altri due dentro la casetta fuori, però. Adesso, come vai a scavare altro? Figurati, una ciappiacri buro. Senti un po', ma adesso niente di impegnativo, è giusto a livello di curiosità. Ma il Ranger 2950 ce l'hai ancora? Sì, che ce l'ho. Vabbè, come cosa ne pensi quella radio? Ci pensi che il rigore c'era. Tutto qua. Cosa dimmi, a parole tue già. No, vabbè, ero curioso di sapere un po', visto che, insomma, solitamente, siccome l'ho vista, è ancora nella pagina di Facebook, nel mercatino, ho detto, sicuramente non l'ho ancora venduta. Guarda, mi hanno contattato anche 10 minuti fa, sto aspettando 2 o 3 risposte, capito? Vabbè, ma comunque, se non riesco a darla, si è qua, non è un problema. No, tranquillo, fai quello che devi fare. No, piuttosto volevo sapere, ma cos'è, a sintonia continua? Eia, fino a 30 MHz arriva quella. Quella c'ha il beep, c'ha i watt regolabili, bande laterali, AM, FM, tutto, è completa quella. Dissipatore dietro. Ah, perché stavo guardando giorni fa e mi sembra che la Intec lo faccia uguale, però vabbè, chiaramente ha un nome diverso. È possibile che ne ho visto uno col dissipatore sotto? Sì, perché quello è 100 watt. Però la stessa radio è identica e non cambia una virgola. E te lo ricordi il modello di quella? Cos'era? Intec HR, ma non me ne ho mente, l'avevo vista su YouTube, un tipo la stava provando. Non me lo ricordo già. Quella è la versione di 100 watt, capito? Kappa kappa. Mentre quella che c'hai tu, quanti watt c'ha? Allora, io mi sembra che la uso con 4-5 watt da intorno ai 18-20 modulati. E poi lo mette al massimo e mi sembra che salga intorno ai 10 o 15 watt e ne ha una ventina, 25, anche 28 modulati. Kappa. Eia. No, niente, vabbè, così a livello di curiosità stavo sentendo un po' di pareri, di opinioni su quella radio lì. Ho visto che poi è uscito un modello seguente, grigio, col display verde, ma più o meno dovrebbe essere la stessa cosa. La stessa radio è, già. La stanno dando dai 150 in su quella radio. Ho visto. Io l'ho avuta quella radio lì. C'ha anche le memorie, c'ha le memorie del canale. Sì, c'ha le memorie, c'ha la scanner, tutto è completa quella radio. C'ha la batteria che ha le memorie, infatti l'unico difetto che c'ha quella che ho preso io è che c'ha la batteria partita. E non teneva le memorie la mia. Vabbè, già, ma alla fine c'è il pomellino, ti metti i canali che vuoi, non è un problema. Perché lo puoi usare sia solo frequenzimetro, oppure lo puoi usare anche solo canali senza frequenzimetro, capito? Sì, lo so. Praticamente non ho dato poco peso su quello, infatti non le ho mai cambiate la batteria. E me l'ha detto praticamente che me l'ha venduta, io l'avevo pagata 120, non lo ricordo bene. Che me l'ha venuta, detto, l'unico difetto che c'è è questa batteria che, sono sincero, ma non l'ho cambiata perché fa la vita, ma si tratta solo di aprirlo, di vedere che tipo di batteria c'è e poi si cambia, non c'è problema. Sì, sì, è tipo la batteria tampone, tipo quella che c'è le 140, queste cose così, no? Quindi vabbè, questa le tiene le memorie, sicuramente ancora non è partita, diciamo, no? E Maestro, guarda, ce l'aveva Claudio in prova, mi sembra, questa radio, l'ha provata lui. Io, quando mi ha restituito la cassetta, perché ho dato tutto a lui, perché mi stavo traslocando, ho capito già. E quindi ho riempito una cassetta, l'ha girato Dudu, ha detto te prova, fai, gira, capito? E non sono stato, ma quando mi ha restituito tutto è già rimasto tutto in cassetta. Ma non ci ho messo più in campagna. Sì che abito qua sempre, però mi sono trasferito giù, capito? Mi ho fatto zona giorno e zona notte. Ah, ho capito. Più prima che ci abitava tua madre. Ci abita mio padre ancora. Ti ricordi quando abbiamo piazzato la manta, va già, che l'abbiamo piazzata dentro con la veranda? Esatto, sì, sì, l'abbiamo fatta lì con Gaudino, sì, poi non mi ricordo più. Sì, Pierpaolo e Antonio c'era. Quella veranda lì, lì c'ho la cucina col bagno adesso, ho capito. Ah, ecco, l'hai trasformata. Mi ho fatto le scale, salgo su, qua c'ho il bagno, il salottino, la camera della bambina, il terrazzo fuori e la camera mia, là. Te la sei ingrandita, là, sta pure quella. C'è più spazio, allora quindi qualche camera la puoi ricavare per me. Io non mi sono preso il salotto qua, sono nel salotto. Gaia c'ha la sua camera, io c'ho la mia e sono nel salottino qua, in un angolino. Che mi va bene qua, no? Tanto già, per farmi due chiacchiere a voglia. Tanto qua non disturba nessuno, se mia figlia deve stare in camera sua, chiude la porta e neanche mi sente. La cucina ce l'ho giù, quindi non è che... ma va bene. Invito un amico, ci sono i divani, ti puoi sedere, capito? Ti puoi fare una chiacchierata. E mia moglie mi ha detto, me la metti tre in camera da letto, in un mobile. No, no, no, non li voglio in camera da letto. Capita che viene un amico e devi far entrare in camera da letto. A me non mi piace questa cosa. Sì, vabbè, io già ce l'ho in camera da letto, però per me diciamo che è comodo, perché mi curico e parla tranquillamente, adesso sto rilassato. Il salone non faceva, perché io c'ho il televisore grande, il salone, tutti quanti vanno a vedere il televisore, magari c'è il televisore. E cosa devo dire? Io già ci avevo in cucina prima, dentro un mobile, fate lo conto. Vabbè, adesso mi ho ricavato quest'angolino, già va bene così, là. E almeno qua sono tranquillo, non disturba nessuno. Avanti, Gianni. Eia. Vabbè, ieri ho sentito Tino che ha disperata ricerca di Ghisi Bussantini, è monopolina del Pluto. Credo sia il Pluto, vabbè, non me ne ammetto bene. Esce di ricapo. Ma come sono quelle del Pluto? Sono come quelle del Midland. Della lampada dopo, per intendere. No, allora sono, per intenderci, uguale a quelli dell'S9, però sono tutti in plastica neri. Uguali, mi, uguale all'S9, però in plastica neri. E allora lo posso aiutare. Vabbè. Sì, magari li vengono. Magari ci sono. Non c'erano li poliniti, li policromati, non erano matteci, oppure li metti qui luminosi. Sì, è uguale. Ma già li trova, prima o poi verrà, già li trova. Stavo anche cercando lo switch della lampada antica, mi sa che io ce l'ho, se tu non lo so, devo controllare. Mi ricordo che c'è alcuni impitti della lampada antica, ma se ce lo switch non me lo ricordo più. Io mi adesso da quel Bowman, quello ne ho tolto lo Smithers e me lo metto nell'87, che funziona male, sempre se va bene, se no pazienza. È uguale? Non lo so, alla figura così, misurato così, Gli ha sembrato più umano, non va bene. Sì, vabbè già, è una radio per pezzi, non è che... Provato vuole, là. Provato. Già glielo faccio stare lo stesso. Ehi, ehi, bene merda, bene merda, dai. Poi c'è Eugenio che sta cercando il Galaxy Turbo, che si è rinnamorato del Galaxy Turbo. Come mai sta cosa? E cosa c'ha da Saturnecco in più il turbo? Che c'ha 100 watt e arriva a 30 megahertz. Cosa si ne fate? Ha avuto... c'ha questo ritorno di fiamma. Cosa vuoi ti dica? Ieri siamo stati lì a chiacchierare che, insomma, se gli capita una buona occasione lo prende. Allora, un Galaxy Saturnecco, renditi conto che fai dalle 200 alle 250 euro. Si trovano, ce ne sono anche tanti in vendita. Un turbo lo paghi dalle 300 alle 350 e dal Saturnecco, a me mi piace più il Saturnecco, a me tutti questi bussanti che fa da nazi, memorie, contro memorie, non è che mi piacciono molto. Allora, in poche parole, c'ha due bande in più, basta, non c'è altro, è 100 watt. Ma alla fine tu ti prendi 200 euro, ti prendi un Saturnecco, altre 70 euro, 60 euro ti prendi un 747 e c'è la stessa radio. Quello che gli ho detto io, stesse parole. Però hai due piatti così, cosa vuoi ti dica? Già lo sai come funziona, no? Le cose. Tu è innamorato di Ghisso e le piace Ghisso. Vabbè, è una questione di gusti, però io ho detto la stessa cosa che ha detto Massimiliano, a me piace di più Saturnecco, perché non mi piacciono i tastini, mi piacciono le manopole, le stesse cose che ha detto Massimiliano. Più bello, poi quello lì c'ha più casino anche, cioè nel senso tutti quei pulsantini sono tutti elettronici, quelli si schiariscono, diventano gialli, diventa brutta poi, ma comunque se le piace a lui va bene così. Io preferirei più prendere un Saturnecco e un 747, boh, tanto il Saturnecco arriva mi sembra fino a 28, quello arriva fino a 30, ma tu pensa che già da 28 al 700 già non vedi nessuno, così è già. A me è 40 arriva il mio. Cosa stavo dicendo? Che Saturnecco gli ha messo al posto del trasformatore, gli ha messo il lineare, mi sa proprio 746. Poi gli ha fatto uscire praticamente dove c'era l'attacco al trasformatore, ha attaccato un jack femmina e gli ha fatto uscire con l'alimentatore, capito? E chi è questo? Chi è? Claudio Sparviero? Su internet c'è. Ehi, so che c'è sta internet. L'ha già fatto tre volte, l'ha già fatto con la Oracle, figurati. Altro che aspettare a internet. Buonasera a tutti. Io e buttateci questi baracchini e campate via Radio Siria. In tasca, sì. Cosa avete parlato in due, cosa hai detto Gianni? Che a me piacciono più i baracchini delle radio, sì. Allora, viaggia con i baracchini. Io il Galaxy Saturnecco l'ho avuto 10 anni fa e ho fatto una modifica proprio del genere, però il 747 non ci sta, ci sta il B30, non so se l'avete conosciuto, quello piccolino, proprio nell'angolo, senza toccare il trasformatore, senza toccare niente, con l'uscita del doppio PL dietro, fatto a pannello a stampo, me l'aveva fatto, me l'aveva buccato dietro proprio l'officina turritana, ma si vedeva col tornio, il pannello di dietro che copre praticamente il tappo di dietro, ed era venuto un bel lavoro. La stessa cosa ho fatto al DAC, il DAC è più vuoto, però è più vuoto perché è anche più grande, e lì ci sta il 747, lì ci sta. Classe, no, 747, una scatoletta, lo metti dietro, e già lo trovi un posticino, cosa andiamo a futti. Lo metti dietro e mi fai un pulsantino a distanza per accenderlo. Ragazzi, devo che mandi un altro pacchetto di sigarette, 747, così non disturbano. No, ma era diretto, era diretto perché l'alimentazione era stata presa dal pulsante praticamente di accensione, quindi dai 12 volts, capito? Quindi quando tu accendevi la radio automaticamente si accendeva anche il linearetto interno e dava una trentina di watt, così 35, dai, una cosa del genere, non di più, con quello piccolo, col B30, con 747 il DAC ne era di quasi 100, era quasi 100, però l'ho tolto perché mi serviva per fare altro 747, quindi ho eliminato la modifica, capito? Va bene, già, io baracchini tanti, ma se mi stacco da questa io sono morto. E ha ragione, dai, almeno qui c'ha le sue cose, però a me piacciono molto certi tipi di baracchino, ma ci sono certi tipi che mi piacciono molto. Ma guarda, devo lasciare che te sei stato pugnato, dove siete scendere giù, ieri è la diarrea, quindi meglio che lo porti che mi faccia la casa a volo. E io sono rientrato adesso, vabbè, avanti, chi c'è? Che Gianni il profeta. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. E allora, com'è? Tutto a posto. Ciao, già, ci sentiamo dopo, ci coincide. Tutto a posto. Un stanchino, oggi ho fatto un po' di cantiere, poi sono sceso ai punti, che avevo un appuntamento, sono risalito velocemente, vabbè, ho preso un caffè, velocemente e niente. Portato il cane, tutte cose, adesso la mattina mi faccio un'altra mattinata di cantiere, stiamo finendo questi cazzo di lavori, se si tolgono in mezzo alle balle, anche non ve la voglio più, perché poi adesso arriva il caldo e mi biglia Maria a me. Ascolta Massimiliano, è bella, hai tolto quello Schmidt? Yes, tolto, però poi vabbè devo smontare l'87, non so se va bene, no? Vediamo, se va bene lo piatto, Cla, se no pazienza. No, invece ti volevo chiedere, Cla, gentilmente, se ti capita di passare in zona GBC o quella zona lì, di chiedere cosa viene il... Ma cos'era il finale? Il 2078 mi sembra, quello originale. A Fusaro ce li ha, non ne ha la GBC, così mi aveva detto Antonello Massimiliano, te l'ho detto. Adesso ce li abbia Fusaro. Ah, Fusaro ce li ha, va bene allora. No, perché quello là mi sa che non va bene. Il 1969 mi ha detto che c'ha la pedinatura diversa, quindi mi ha detto che non va bene, Antonello, boh. Ma cazzo che non si può modificare la pedinatura? Capito, non me l'ha modificata la pedinatura di quel relay. A me, cosa c'entra? Tutte le pedinature si possono modificare. E lui ha detto che non va bene piazzare quello lì. Boh. Cosa vuol dire? Ma, vabbè, sarà, comunque. Adesso ci informiamo meglio e poi vediamo, dai. Non sarà lì c'è un problema, KK, avanti Rubrofetta. Ehi, beh, questa nuova radio K come va qua? Sì, questa nuova radio K già funziona bene, ma no, questo è il 440. Ma è la mia, ho Gianni, non sono buono a comprare ancora radio, io ce le ho le radio, ce le ho viste. Non era la mia quella, no? Me l'hanno data per vendere, l'ho già venduta tra l'altro, l'ho consegnata oggi. Perché mi hai fatto questa domanda di quel rangerino? No, perché ieri su internet mi è capitato di vederlo. Stavo scorrendo un po' di roba su eBay e mi è capitato di vederlo, capito? Quindi mi è venuta in mente che ce l'avevi anche tu. Ah, l'hai visto su eBay, ma il mio no però, perché io su eBay non lo metto. Sui big maghi mio, l'ho preso, KK. E va bene, dai. Io, mamma mia, come sto. Sì, così è la vita, cazzo, è peccato quei due finaline che non vanno bene, vabbè, dai. Ma io ho visto altri 48 normali, 68 normali, cazzo, le mettono il 1969 e va. Il ghito non si può fare. Sì, ma ci vediamo, io penso che... Poi, tecnicamente parlando, se effettivamente quei finali ce li ha Fusaro, non ho capito perché una citofonata a Gavino e ti vai a piazza da Gavino, cosa c'hai a fare un sacco di giri e giretti. Tu ti prendi la siga, Gavino l'ho visto anche da poco a Fusaro. Gavino, quando vai a Fusaro controlla se ci sono queste cose e me li prendi. Basta. Al momento opportuno si cambiano. No, me li cambio io qua, sono tre piedini da saldare. E uno mi va a cambiare, non è che sia chissà cosa. Però io non so manco se ce l'ha, io manco aperta lo guardare, che non so nulla come dentro, capito? Non l'ho manco aperta, vabbè, comunque adesso non mi devo sfasciare la testa per questa radio, mi interessa. Ma arrivi tu vici. Arrivi tu vici, faccia aperta. Quando c'è il momento si mette la posta anche quella lì. Io ti ripeto, non ho fatto più niente lì. Da quando ho portato via quella scatola non ho più provato niente, l'erba che c'è dentro l'armadio, quanto dentro l'armadio, il lac è sopra diciamo non dentro l'armadio, nell'ingresso sulla mensola, in alto. Non me la fotti nulla, io ho questa, fino a quando funzionano queste io uso queste. Quando queste non funzionano più, mi attacco un baracchino, va a farmi due giacce e si abbiglia qui. Si conferma, va bene. E tu già, come sei combinato lì? In che senso? E dico, come sei messo? Sempre solito tran tran. Solito tran tran, adesso devo sentire Daniele nei prossimi giorni, vediamo un po' di fare questo esperimento per vedere che differenza c'è tra questa e la Ringo, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Guarda, se mi viene in mano, sono sicuro che qua a casa ho buttato da qualche parte, perché però è solo una volta che non lo vedo. C'ho uno di quei linearetti piccolini, diciamo, danno intorno a 30 di watt, una cosa del genere, 25-30 watt, si può provarlo in quella radio a vedere come esce. Però lo devo cercare, lo devo trovare, perché c'è tanta di quella roba che non mi lamento più, manco cosa faccio. Che ha già capizzato. Già ho visto tutti gli scatoloni, quindi immagino che chissà quanti altri scatoloni c'è pieni di roba, quindi figurati. Adesso io stasera ho aperto l'armadio per prendere un'altra cosa, e ho già avuto il tiro alla chiesa, e dici, danni noi riusciti. Non mi ricordavo manco che ce ne avevo più, fatto il conto. Poi ho trovato, ecco cosa ti volevo chiedere, Cla. Per caso tu del 48 non è che c'hai due slitter, no? Del 48 due smitter? Slitte. Cos'è? Hai visto quei due binarietti che c'ha il 48 a fianco dove metti la staffa, quelli in alluminio? All'interno ci sono due slitte che scorrono. Ma io, se non vado errando, devo controllare, forse c'è una staffa con quegli affari già attaccati, però non te lo assicuro, devo controllare, l'avevo vista, ma non mi ricordo se è in questo armadio o se è in quell'armadio che c'è sui mansarda. Capite, sono cavi, cavetti, staffe vecchie, però mi pare avevo visto qualcosa dell'Alan 48. Se c'è, te le do. Va bene, va. No, le slitte, gli affarini in alluminio ce li ho, però mi mancano le due slittine che scorrono dentro quell'alluminio, capito qua? Va bene, dai, no, non ti preoccupare, giusto così a titolo informativo. No, le slitte no, c'ho quegli affari che sono attaccati alla staffa, quelle mi ricordo che ce li ho, da qualche parte ci sono, le slitte no, quelle che sono attaccate al baracchino stai dicendo, no, quelle io ce le ho solo attaccate al mio Alan 48 e in quello tuo non ce l'hai mi fare. Ma le due binarietti, diciamo così, quelli ce li ho io, ci mancano le slitte dell'interno. Quelle che sono attaccate alla radio? Quelle che sono attaccate alla radio, quelle ce li ho. Mi mancano quelle che agganciano alla staffa, per farti capire. No, e quelle ce li ho, quelle da qualche parte ci sono, devo controllare, da qualche parte ci sono, perché le ho viste. Cappa, e così vediamo di rimetterlo un po' in sesto, quello lì, là. Perché Tino mi ha detto che c'ha una mascherina e ho trovato un po' di quegli adesivi che mi sembra che te l'avevo anche dato, uno a te, per il 48. Glielo metto, Claudio, un adesivo davanti, poi rifaccio il coperchietto, le metto la staffa con le due cose, se riusciamo a mettere in funzione, perché buttarla può sempre servire. No, no, ma infatti non si butta niente, cosa si butta? Non si butta assolutamente niente. Se quella lì è funzionante, si fa quel lavoro che hai detto e si usa, capito? Non problem. Va bene, controllo Massimiliano, perché mi sembra che quei bidarietti li ho visti da qualche parte. Devono essere attaccati a qualche staffa, capito? Sicuramente, sicuramente, perché io di Alan 48 ne avevo un altro e staffa non ne avevo dato, non l'avevo data o non l'aveva voluta, boh, forse Giampaolo, quando l'ho dato alla radio a Giampaolo staffa non ne avevo dato, non mi ricordo, comunque una staffa ce l'ho sicuramente. Avanti già. Eia, eia. Ma vabbè, ma non ha niente a che fare con una plancia, no? Plancia? No, no, no, no. È una guida che scorre, l'Alan 48 hanno fatto con le guide, attaccato, chiamiamo le guide, attaccate alla radio, e poi ci sono degli agganci nella staffa che vanno a scorrere dentro queste due guide, capito? Tutto lì. Va bene, va bene. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa? Allora, se lo trovi quel B30 dovrebbe essere quello, tipo B30, o è grigio o è del colore ZG, se no è grigio, è del colore di quello che hai tu Massimiliano, piccolino così, non c'ha niente, c'è solo off e on, e basta, quello lì. Io quello l'avevo messo dentro il Galaxy Saturn Echo e mi dava 35 watt la radio, 35 watt in AM dava, qualcosa in più in FM, in banda laterale, ma non va nudo, vasi, tutto uno vasi. Eia, ce l'ho uguale, cla, ce l'ho uguale, però il mio, al posto di essere grigio, è tutto nero e al centro c'ha una banda verde, e c'ha uno, c'è presente quei pulsantini, quelli che c'hanno la levettina lunga, per accendere e spegnere, boh, non vale altro, un LED rosso mi sembra che si accendeva quando era acceso. E adesso non mi ricordo se avevo un LED rosso, ma non va via nulla, off e on. Tu lo potevi usare sia in banda laterale che in FM, in AM e fasi a tutto. Non andava benino, andava benino. E l'avevo venduta così quella Galaxy Saturn Echo. L'avevo venduto così. E ti dico anche che l'avevo venduto a cosa, come si chiama? Quello a Gianni, dai, capito? Per capirci. Gianni. Ti dico che mi ha dato quella radio che mi hai fatto avere tu VUMI. Ah sì sì sì sì, ho capito, che mi pare non l'ha più nemmeno. No, perché poi lui l'aveva venduta a quello di Ozieri, quello di Ozieri l'aveva venduta a quello di Pattara, insomma questa radio non so che fine ha fatto, però era nuova e funzionava molto bene, infatti quello di Ozieri, quel Nino 2, Nino 1, non mi ricordo come cacchio si chiamava, quello lì, quando usava quella radio arrivava a Santiago Novesas, perché da me, perché c'aveva un 35 watt dava la radio, capito? Aveva sempre questo linealetto in funzione, collegato all'accensione dei 12 volt, quindi quando accendevi la radio praticamente entrava in funzione il linealetto. Lì alla Turrettana al turno mi avevo fatto fare, avevo portato la ghiera giusta di quelli da pannello, mi avevo fatto il foro giusto al turno, dietro Gianfranco, me lo ricordo, le avevo collegato gli agganci su, insomma, fatto bene, una cosettina fatta bene, la staffettina all'interno per tenerlo sollevato, per non scaldare, non si vedeva niente, un bellissimo lavoro avevo fatto. E poi lo stesso lavoro, un po' gubbio alla garlona, l'avevo fatto al DAC, con 747, però poi gliel'ho tolto, capito? Già mi ricordo questa cosa, che l'avevo messo dietro, sì. Sì, sì, ma poi no, intanto era una cosa sprecata, io non lo usavo, poi ti ricordo era andato un po' in tilt, l'avevo messo quando praticamente le valvole erano esaurite, che davano 3 watt, e quindi avevo messo lo lineare, ma ne dava intorno ai 60, 55, 60 watt, capito? Perché ne era di più, se le dai 5, 6 watt, 7 watt, ne era 90, 100, ma ne dà via 3 watt, poi invece che prima aveva procurato le valvole, ho cambiato le valvole, gliel'ho tolto. E va sempre in altro armadio, perché qua se tu vieni non c'è più niente, tutto che c'è roba, ti dico lo toglio, se ne fai, ve ne sopra mobili, no, ve ne sopra mobili, tutte le radio che mi servono, il resto tutto conservato, tutto dato fuori dalle balle, vai già. Eia, eia. sì, adesso mi ricordo qual era il DAC, quello che mi fatto vedere in fotografia, quello che piace a me, Beta Radio, Là, un'info. Il Ranger, che tu ti ricordi, quanto dà? Un 25 watt, una cosa del genere? Buoni, c'ha la potenza tutto a pulsante, l'OVHI, buoni, sì, me lo ricordo, buoni. Ah, quella radio è nuova, infatti. Funzionante al 100%, esteticamente molto bella e molto massiccia. Molto bella e molto massiccia. Non la stai facendo andare, no? No, Clay, non la sto facendo andare per niente invece. Ce la volevo attaccare, vabbè, adesso avanti non la giocano a blu. Ma mi sa che domani la faccio andare un po'. No, non c'ha l'OV come dici tu, Clay, c'è la regolazione dei volti, è proprio a potenziometro quella. Il Ranger, oggi non me ne ammetto, mi sembra c'era il pulsantino l'OVHI, perché quella non ne ha di, è tutto a tastini, è tutto a tastini, non starei confondendo, no, con l'altra, con quella che è data a me, l'Herbex c'è i watt regolabili, da 0 fino a quasi 20, 18 watt, non me lo ricordo Massimiliano, ma quella la devi usare col microfono normale, perché è a 5 lo spinotto, capito? No, non è... Ti stai confondendo con serpente tu, quello l'OVHI, capito? A pulsante. Quello è a potenziometro. Però io mi ricordo che io mi sembra che lo usavo a 5-6 watt e dava intorno ai 18-20 modulati, o a 22 pure, una cosa del genere. E vabbè, tu perché la usi così? Io la giubbotta a minimo e a massima potenza. Ed è così, sì, sempre sulla T230, da così. Vabbè, no, bella radio, bella massiccia, e poi bella perché c'è un display già, mazzo, sì, giuro, vedi, ma numeri enormi, c'è un frequenzimetro enorme, tutto arancione, tutta illuminata di arancione, tutta, qualsiasi tasto, proprio il frontalino è tutta illuminata di arancione, molto bella quella radio. Sì, infatti lo stavo dicendo a Massimiliano. L'ho visto su YouTube, c'è un tipo che insomma l'accende e spiega il funzionamento, e poi avevo visto un altro video della radio praticamente gemella che però fa la Intec, quella con l'amplificatore sotto, HR, non mi ricordo il modello, e praticamente le radio sono molto simili, stato che l'Intec questa qua ha l'amplificatore a 100 watt sotto, capito? Gianni, quel Ranger lo fa anche la cosa, la Sommercamp. Ehi, infatti io stavo leggendo nel forum ieri avantieri che insomma più o meno sono due o tre i marchi che fanno quella radio, dai. E comunque, Ocra, per tornare a noi, ho provato quella roba là che ho sistemato, quello con gli aghimi, intendimi. L'ho provato con serpente, cazzo, 100 watt da, in AM. Ah, buffonetti, sì. Se te la giudizio. Impressionante, allucinante, brutto. Ma io le prove le ho già fatte, Massimiliano. Sono stato un mese, in più denti che si è scattola. Hanno intendito tutto, provelli, facevo prove, staccavo uno, attaccavo l'altro, facevo, poi... Sono belle cose quelle, capito? Sono belle cose veramente. Sono un bel tutto, l'ho detto, tutto quello che c'era lì dentro era perfettamente un po' in stato d'abbandono, ma comunque perfettamente tutto funzionante. Ma io già, cosa mi dai, là che ti do quel reggio? Ma io fammi l'offerta. Amico mio, no, non c'ho i soldi per far ballare un gobbo, cazzo, no, figurati. No, guarda, se avessi avuto la possibilità, molto volentieri. Uno scaldabagno, un ferro da stiro, cosa ne so? Cazzo diavolo, bobo. E qua c'è gente che faceva questi scambi così, un trappa, un tassellatore, e la metica. Allora, proprio questo tassellatore, a me ti vai a fare il ginesio, che tu ci batterà banana fra poco. Capito, mi ha quello bene. Chiaro sai che è in buone mani. Lo sto tenendo ancora qua perché devo fare dei buchi per mettere l'inferriatemi, che ho comprato i ferri l'altro giorno qua. E la verità non la giugana di stasera di mettermi a vedere con molto picco a fare quattro buche cagate ci sono da fare. Però mi serve, dai, già è qui, già lo sai, com'è, fai un fischio ce l'hai. Ma tanto devi farlo tu, trovare qui. Quando fa tempo buono. Dobbiamo mettere altre due staffe e ci serve quello lì perché quello buca molto bene, eh. Magari per il resto non serve un cacchio. Ma bucare va bucato, ce l'ha intarmato Fabrizio. Metto altre due tirafondi, a tassello chimico, capito? Se mi sposto la manta va, me la sposto dall'altra parte. Me la sposto dalla parte mia, dai. Per l'ultima riunione che abbiamo fatto mi hanno chiesto se gentilmente però, la toglievo da lì e me la mettevo nella mia mansarda, va bene. Cioè dove c'hai le direttive? Sì, quello è il lato mio, io la manta ce l'ho sull'altro lato, praticamente corrisponde all'altra scala, non è roba mia quella. Sì, a cosa bogo, la metterla lì, anzi anche me lo cavo c'hai, perché guadagni minimo la quindicina di metri, di cavo e meno. E via la grande, poi me la attacco al commutatore. Infatti lo faccio perché conviene anche a me. No, me l'hanno detto molta tranquillità, capito? Niente di che. Siccome devono venire, devono fare dei lavori sul tetto, nell'altra scala, però non nella mia, no? Capito? Cercavo che attraversa, mi hanno detto se lo potevano attaccare, ho detto no, non devi staccare niente. E allora da un po' di fastidio, non ti preoccupare, se da fastidio la togliamo subito, me la metto dalla mia parte. Però gli ho detto da dove dovete salire? E dalla sua mansarda. Ah, dalla mia mansarda devi salire, ho capito. E se io invece ti volta attacco l'autoscala che mi hai fatto dei anni fa, tu cosa ne pensi? No, signor Clara, dai, non faccia così. Lo stiamo chiedendo per favore, niente di particolare. Se la vuoi lasciare, la può anche lasciare. No, io l'antenna gli attini da voi. Però ad occhio, non facciamo le cose come 10-20 anni fa, perché sennò se putte in piedi, quando dovete fare lavori sul tetto chiamate l'autoscala. A casa mia non vi basta nessuno. Positivo, già va bene. Sì, qua. No, vabbè, manco vedo spostarla, così ce li hai tutte nella tua parte, non rompere palle a nessuno, là. Spostare quell'antenna è già 10 minuti qua. Ci prepariamo le staffe, tanto il chimico in mezz'ora è asciutto, capito? Mettiamo le staffe, attacchi dove vuoi tu, metti il chimico mezz'ora, nel frattempo iniziamo già a scendere, a staccare il cavo e via. E così ce le hai tutte dalle tue parti, così non rompi la palla a nessuno. Sì, ma infatti ce l'avevo già da quella parte lì, solo per quella l'ho spostata quando ho montato le direttive perché mi toccava, non giravano, capito? Non giravano, allora l'ho messa lì e c'erano già le staffe che io prima abitavo nell'altra scala, capito? Andavo piano nell'altra scala, nella G, adesso sono nella F praticamente, mi sono spostato all'interno e quindi lì avevo messo le staffe che mi servivano. Perciò l'ho spostata lì, però non c'è problema, non me ne fa da. Avrei anche, la potrei anche mettere sopra il sistema, mi togliendo la 510, ma diventa troppo alta e ho paura che poi succeda casino col vento, quindi me la metto bassa come adesso, con 2 metri di dubbio, a voglia arrivi in capo al mondo. Vai, Lubro Fetta. Eia. Ma le antenne non è scese ancora, no? No, si è inceppato il tecnico, capito? Io c'ho un amico tecnico, no? Tecnicamente è preparato a salire sui pali, sulle scale, a fare la scimmia, capito? Solo in questo periodo ne ha più poca voglia di me. Si chiama Massimiliano Bulldozer. Ah, mi sembra che conosce, allora. Perfetto. Ah? Ma sai cos'è? Che va, lui si impara, subito. Non ne abbiamo voglia tutti e due, perché anche l'altra volta ho detto la scegliamo, la verità. Grazie, fa fine settimana facciamo quella faccina, lascia la lì, non la giocare manco di bruciarmi un gomodo, capito? Il tempo già ce n'è, le antenne già sono lì, non stanno chiedendo niente, le usi o non le usi già, quella tempesta che ha fatto la maglia non ne farà ne più. Adesso appena ci abbiamo una giornata bella, si inizia il caldo, ci piace anche stare a petto nudo sul tetto, Massimiliano viene con l'accetta, già, 10 minuti a Basciadutto, non c'è problema, viene anche Tino, quindi, capito che lui sta facendo ancora lavori a casa, se no sabato e domenica è sempre libero, invece finisce il venerdì e lavora anche sabato e domenica a casa, quindi non è mai libero e perciò lo lascio tranquillo. Appena abbiamo un po' di tempo le togliamo, c'è solo da, ci vuole gente forte per abbassare il sistema e poi le antenne già me le smonto io piano piano, loro me le devono togliere la roba più pesante, capito già, però già lo faccio, così libero tutto e lascio solo il dipolo e l'antenna della 27 me la sposto dalla mia parte, è tutto fatto. E vabbè, le direttive non te le lasci quelle piccoline per le... quel sistema piccolino che avete fatto, quello te lo puoi lasciare, le tue la grande, bucla, e gli altri due le lasci, le piccole. Sì, la grande, no, la piccola l'ho già sistemata, la piccola ne ho tolto il rotore, che era rotto, un rotore piccolino che c'era, quello l'ho tolto, eliminato, la tre elementi per i 10 metri l'ho messa fissa, puntata a 270 gradi, 280 gradi, che è lì, si lavora bene, quando c'è propagazione, capito? E sopra devo montarle, che l'ho smontata, devo montarle quelle VU, quel sistema lo lascio, ma senza rotore, fisse, capito? Se c'è propagazione, che le antenne lavorano in quella direzione, va bene, se lo uso il dipolo, me ne affutti nulla, non ne metto più i motori, non fa cosa, farà di l'altro, metto 2 anni di motore, tutto fatto a pezzi, no, Massimiliano, non ti ne rampo di naio, non so con assis. Te lo metti un rotolino per quel VU? No, le lascio fisse, puntate sulla Liguria, quando c'è propagazione già si fanno due chiacchiere, tranquillo, messe a nord, quelle sono puntate a nord, Massimiliano, e da lì arrivano i segnali, capito? Poi c'ho il dipolo, quello bello, ma l'ha regalato Marco, quello fa fronte e retro, anche gli angoli a 45 gradi si può lavorare tranquillamente, a quell'altezza l'ho anche già sollevato, guarda, il dipolo l'ho già sollevato, era praticamente a terra, l'ho sollevato 2 metri alto, adesso chiaramente le antenne non possono girare più, perché altrimenti mi fascino il tubo del dipolo o si fascia i radiali, le altre le ho già sistemate, già pronte, c'è solo da smontare le direttive grandi, e quelle lì per quando sono basse già si fa in fretta, non è un problema, tu già niente c'è da smontare a casa tua? No, assolutamente no. Per un tubo un dia giù piazza di vent'anni le baracchine e bacca. Solo chi ci vuole smontare? No, bisogna lasciarlo quello. Se no abbiamo finito. Gappa, vabbè. Oh Clash, non lo so, se ti vuoi organizzare per domenica, se fa tempo buono, lo facciamo, capito? Ehi, ma noi due non ce la facciamo, bisogna organizzarsi anche con Tino, ci vuole anche lui, Massimiliano, perché ti ho detto che il punto più difficile non è abbassare le antenne le abbassiamo io e tu, non è un problema, ok, ce la fai tranquillamente, anche perché intanto sino a giù non arrivano che ti è sfuggita la chiave e hai piegato il tubo, quindi si blocca lì, non farà più di ghiaccio, perciò danno non ne facciamo, anche se dovesse tu la molli, si inchiola lì, boh, finito. Però il problema grosso è staccare le antenne sopra il mast, capito? Che Fabrizio, ti ho detto, per montare la 510, l'abbiamo montata giù, poi l'ha messa dentro, ma quella della 5 elementi per i 50 mega si è appeso, si è fatto la scaletta e si è appeso, io non mi appicco così, preferisco bigliare la mola, si canne tutto. Sì, a sappichiamo noi, non ti preoccupare. No, ti sto dicendo che per domenica, se va bene, lo dice a Tino, oggi è appena lunedì, Micla. Adesso mi sembra che ha messo un po' di tempo ancora instabile questi due giorni, però poi c'è un miglioramento del tempo. Se, vabbè, con tutto quel vento di questi giorni non li farai, già non li farai più, però almeno sei sicuro, capito? Va bene, dai, no, non è un problema, non è un problema. No. Già si può fare anche un'altra volta. Ma ci vedi, ma fotti di. Sappiamo che dobbiamo farlo, no? Come hai fatto l'altra volta. Ti ricordi? Che lo dobbiamo fare. Sto salendo. Ma il bocco più a pulire il cara che a fargli subito lì che va. Perché sono nuovamente piegati quei due agganci. Quindi ho paura che un'altra imbarriata di vento e mi rispetta direttamente. Quindi vuole scesa e fatta manutenzione. O si abbassa, si fa manutenzione e si lascia fissa, allora è un altro discorso. Se no, ne vuoi condotto, non mi interessa niente, no, sono cose che tanto a me non riguardano più. Io attività non le faccio, c'ho tutto ma non le faccio. Mi piace avere le cose, meglio di te, però faccio attività con quello che posso fare, ok? Il resto lo lascio fare agli altri che hanno grandi possibilità, grandi cose, eccetera, eccetera. Non voglio assolutamente criticare nessuno, ma io la penso così. E di divento nodro mio, quello non ho piano ma ha detto, signor Cla, un fischio allucinante mi stava entrando dentro le orecchie. Ma lo sai quanto fischiano quelle antenne, Massimiliano? Ma fischiano me, fischiano, uscicate nel culo vento me. E io ci ho abitato al nono piano, si sente un bel capito, quindi non voglio rompere le palle a nessuno, ne voglio tutto e basta, boh, filari e antenna della 27, basta, mi sono rotto le balle, vai già. Aspetta che vado a aprire la porta, stavo suonando. Ehi, smontare tutta l'ambaradà, tutto il baraccone, dai. Quando ieri avantieri stavo provando il portatile con l'antenna esterna, mi è sembrato di sentirti sul 30, vero? Sì, ero con Gianfranco e stavamo praticamente, abbiamo preso il 30 come monitor, non perché per fare questo, il 30 come monitor, però stavamo lavorando in digitale, in VHF digitale, e come monitor avevamo il 30 perché a volte non ci agganciavano il radio, capito? E quindi infatti l'ho portata da lui che me la sta riconfigurando, perché digitale se non li fai gli aggiornamenti perde la configurazione, è un casino, quindi l'ho data a lui. Stavamo facendo queste prove così, capito, a livello amatoriale. Però come monitor avevamo il 30 perché alle 10 c'era QSO. Sì, infatti ho acceso un attimino, sento che stavate trafficando, non mi sono fermato, mi sono ritornato sul 10. Sì, beh, quando c'è QSO noi puoi stare a impegnare il canale, prova qui e prova là, se c'è QSO ti sforzi, noi siamo due radioamatori, avevamo necessità di provare la parte digitale amatoriale, quindi stavamo facendo quelle prove lì, capito? E allora ho detto, vabbè, già prendiamoci un monitor, che ora siamo sul 30, anche perché il 20 a volte c'è gente, anche se non c'è nessuno, il 23 non mi va di occuparlo perché fanno QSO, quindi ci siamo andati al 30, abbiamo tenuto quello il monitor e poi stavamo chiacchierando in VHF. Non siamo manco avvisati, eravamo dalle 5 e mezza, cazzo sono arrivate le 8, eravamo ancora bruventi, ha detto Gianfra, le 8 so, aiuto, ho là tutto, dovevo ancora portare il cane, hai capito già? Ehi, già va bene. Adesso mi era venuta in mente una cosa e mi si è fuggita subito. Vabbè, appena me la ricordo già te la dico. Comunque niente di importante. Va bene. No, io sto andando sempre con le 44. Il rimesso al suo posto il 430, che ho tolto il 590, l'ho consegnato oggi e niente, adesso un po' torniamo ovviamente con questo. E non era roba mia, stavo scherzando, un attimo, ne ho tre HF, bisogna comprarne un altro. No, assolutamente, non era roba mia, è di un carissimo collega radioattore che la stava vendendo, l'ha data a me, e mi è durata 10 giorni in mano, l'ho venduta subito. Già me l'avevi detto che ti dovevamo portare un apparecchio da verificare, dai. Tutto digitale. Sì, una bella radio, va bene, però a me non interessa, io la 27 ce l'ho, ne ho due uguali, 30 e 40, poi c'ho Iaeso Icon per quanto riguarda HF, Icon per quanto riguarda VU, quindi no, va bene così, va bene, ne avanza, a voglia, tanto, per l'uso che ne faccio io, è più che sufficiente, no, quella è una bella radio. Vabbè, di me si fidano, quindi non è la prima volta che ho radio di altre persone che poi le vendo, perché sono abbastanza ordinato nelle cose, quindi non hanno la massima fiducia, anche se sono radio costose si permettono di lasciarmele, di usarle, di provarle, testarle, no? Non c'è problema per questo, e quando le vendo si fidano, perché non hanno mai dato mondezza. C'è una radio difettosa, io guarda, c'ho gente per il 430, ma anche dal continente mi chiamano, capito? Non la do perché ogni tanto è una radio un po' particolare, ogni tanto si spegne da sola, poi si riaccende, sono dei falsi contatti, però no, io butto e filo non ne faccio, ma la tengo così, quando si spegne come te accendo l'altra, no? Ha funzionato, a volte non si spegne per niente, come l'altra volta che l'ho usata tutta la sera, a volte si spegne subito. Capito? Allora la lascio riposare e poi comodo e uso l'altra, però già non mi rompo le palle, la faccio controllare perché è nuova e funzionante al 100%, capito? Sto facendo lo spazio. Ehi, così che non si fa vedendo e dici tu? No, infatti l'ho andato, ma fa vedere. Ah, lo sai, Massimiliano, che si spegne anche se stai senza parlare. Allora l'altro giorno l'ho accesa, ho detto l'accendo perché avevo già chiuso, ero già andato via, però prima di portare il cane ho spento il 4.40 e ho acceso il 4.30 e ho lasciato nel 10, quando sono tornato l'ha spenta da sola. Forse quando scalda c'è qualche contatto che magari, vabbè, ma comunque, già c'è il tecnico qua a Sassari, già lo sai, è quella che la fa tornare fiammante qua. Ehi, già l'ha presa in mano un paio di volte, Fabrizio sta dicendo, se va Fabrizio già voglia portare il virus, ma me l'aveva già detto lui tempo fa, che appunto era una radio un po' vecchiotta all'interno, ma non nel senso vecchia proprio di cose, ho capito, saldature fredde, cose da rivedere, da metterci un po' di manutenzione all'interno, ho capito, perché me l'aveva fatta tutta nuova, aveva cambiato il display, tutto, riallineata, perfetta, no, come radio è perfetta, c'è una ricezione che non funziona, poi, però ogni tanto si spegne, quindi non è possibile una radio che si spegne, devo prima metterla a posto se ho intenzione di venderla, che non ne ho, metterla a posto bene, fare controllare bene, e poi se si può vendere, si vende a posto, ma il cazzo di una radio funziona 5 minuti e si settura, il dinano si settura, quando uno baga deve essere anche, capito? È giusto che sia così, no. È così deve essere. Va bene, tu, la tua si spegne, no? No, la mia la accende e così rimane. No, la mia già è tranquilla e fedele. L'accendi e chissà caso, quanti colpi ha pigliato il suo baracchino e ancora già va, quindi non mi posso lamentare. E io gli ho dato di aver fatto 2 di sigaretta. Ci fumo anche lì, dai. sì, figurati, ma ci vedevo ancora a provare il 950 NM, figurati tu, non l'ho ancora provato, l'avevo usato anni fa, prima di darlo, non l'ho ancora provato, perché non ho microfono amplificato, capito? Mentre invece prima avevo l'MC60 con il cavetto Yaesh. Ed era una cannonata. Invece quell'MC60 poi l'avevo venduto a Valerio assieme al 920. Cioè già mi avevi detto il cavetto, cazzo. Sì, va bene. Vabbè, Claudio, io vi lascio alle vostre chiacchierelle, che me ne scendo giù, dai, che è arrivata Gaia con Daniela. Me ne vado un po' giù, dai, che mi ha acceso la stufa, faccio un po' di freschetto, via, lo sai. E mi porto giù questo 87 e provo a piazzargli questo smitterino se ci riesco, là. Sempre se va bene, se ho pazienza. Vi lascio, una buona serata, buona continuazione e ci sentiamo alle prossime. No, io ti metto a prezzo perché è già pronto, cazzo, sono le 9:25. No, vado via anch'io, dai. Ciao già, ci sentiamo, ciao Massimiliano. Anche un saluto circolare che è in ascolto sul 10. Se coincide a più tardi, e se no a domani. A te Gianni. Eia, bene meda, salutoni a tutta la truppa, buona carica e tante cose belle. Dai, ci aggiorniamo, grazie mille. Ciao Massimiliano, saluti a casa, ciao a tutti.